Avventurieri, avete raggiunto il fiume. Sulla riva trovate una canoa. Intorno a voi non sembra esserci nessuno. Avvicinatevi per studiare meglio la situazione.